alegria. Isso, eu sou carioca, é a alegria. Na Lapa, curtindo um som, ó. O povo de abraço, o povo de tá aí junto. Si chiama libertà. Per quanto mi riguarda, questa vita è amara. La ruota non mi gira e devo faticare. Per quanto mi riguarda, trovo disumana questa ossessiva voglia di felicità. Tragicomica, la luna, i grilli ed un sorriso da gattona.